solo chiacchiere distintivo, solo chiacchiere distintivo. Queste le frequenze di Radio Onda Rossa, gli 87.9 della banda romana laziale. Questa è 25 o'clock. E questa è la radio. Salutiamo Elettrodo e le sue prove tecniche di trasmissione. E vi andiamo a presentare anche per questa sera un'ora e mezza di allucinante deliquio. Le frequenze quelle di Radio Onda Rossa, dicevamo, la radio che trasmette dal 1977. Senza aver mai ricevuto soldi da padroni, padrini, partiti politici, vive di autogestione. Vive del vostro sostegno. Del sostegno di tutti i compagni e le compagne, di chi ne condivide il progetto editoriale, di chi l'aiuta in tutte le maniere, non ultimo anche il contributo economico. Sul sito della radio www.ondarossa.info, andando su sottoscrivi, ci sta una paginetta intera dove è descritto il modo con cui è possibile sostenere questa emittente. Ma noi vi ricordiamo anche il 61 80 40 01, numero del conto corrente postale da intestare a Cooperativa Culturale Laboratorio 2001, Via dei Volsci 56, 00185, Roma, San Lollo. Se ancora state in giro, e ci avete un'oretta, insomma, ecco, questa sera 100 celle aperte, la presentazione di Scarceranda, fate ancora in tempo per la biretta finale, per salutare i compagni e compagne e, perché no, accattarvi una Scarceranda. Perché anche la Scarceranda di quest'anno è uscita ormai da tempo, se non lo avevate ancora capito. Potete venire qua in radio a prenderne, come hanno fatto proprio poc'anzi, insomma, poco prima della trasmissione di Elettrodo, alcuni compagni. Oppure dopo magari le illustreremo meglio, ci sono diverse presentazioni di Scarceranda, quella di questa sera ve l'abbiamo detta. Ce ne saranno altre in giro per la città e in giro per l'Italia. E anche questo volendo, se non volete ascoltare le mie parole, ma abbassare la radio e guardarla come si faceva con la televisione. già il sito internet della radio, là pure c'è un'apposita sezione dedicata a Scarceranda. Come contattare la radio? ondarossa@ondarossa.info per le vostre comunicazioni e la mail della redazione della radio. Per sottoporre al vostro scritto, al sottoscritto le vostre proposte sonore, 25 o'clock@ondarossa.info, 25 scritta al numero 25 o'clock, ed infine dal 1977 6 cifre dopo il prefisso 0649175 Radio Onda Rossa. E dopo la sigla, no, non mettiamo un'altra traccia, la metteremo ancora dopo. Lasceremo i Sonic Youth nel proseguo di questo lavoro targato 2002, suppongo, 2002, esatto, l'anno in cui iniziò 25 O'Clock. E perché ne dobbiamo presentare un'altra di traccia con così. Una cosa che era ipocrita non farla, ecco. C'era un oceano che ci divideva fra Radio Onda Rossa e la banda Bassotti, c'era e c'è. Lo sapete tutti e tutte. Che eri un oceano che ci divideva, che risaleva ai primi anni 90, quando ci fu la vicenda di Marinella Cammarata. Il suo stupro ad opera di tre o più stupratori. E la presa di posizione, insomma, anche in seguito poi alle successive botte, possiamo dirlo, sì. Perché alle volte così le parole non non vanno centellinate, non vanno usati eufemismi. Ci si scazzò profondamente, insomma, ci furono anche, volarono anche i schiaffoni al forte. E quindi da quei giorni non entrarono più la banda in radio e fu suonata qui da questi piatti, da questi microfoni con molto raramente, molto raramente. E questo è l'oceano che ci divideva, ci divide con la banda. Ma c'è anche tutta una storia parallela, precedente, successiva, contemporanea a quei fatti, in cui in qualche maniera ci si misurava e ci si ritrovava nelle piazze, nelle situazioni di movimento. Insomma, io vidi per la prima volta la banda, che veramente era un kids brufoloso, cioè avrà avuto 18 anni o qualcosa del genere, in quel che era la Casa della Pace di un tempo, in una festa di un'altra radio che, per dire come molte cose cambiano, non trasmette più nell'etere, solamente web, che era la radio proletaria dell'epoca, Radio Città Aperta. E quell'occasione conobbi e vidi il Sigaro,

usual, but I was fuming, you know. I couldn't sleep at night with thoughts of pulling his tail, so I bought a uniform from Royal Mail. I know it sounds weird and it's not okay, but I got a good mate at the DVLA, so I threw him some cash and I got a postcode and a door number and a fucking road. Stick in a five and go. Stick in a five and go. Stick in a five and go. Stick in a five and go. Whoa, whoa, whoa. Stick in a five and go. Stick in a five and go. Stick in a five and go. Stick in a five and go. Whoa, whoa, whoa. Hello? Hello, is that Mr. Twitter? I mean Mr. Trees? Yeah, who's that? It's the postman. I've got a big package for you. You need to sign for it, Mr. Trees. It's massive. So can you come outside? You need to sign for it, mate. What's in it? I'm not sure. I think it's an inland address. So can you come outside? Don't know. You need to sign for it, mate. Sign for it, mate. Sign for it, mate. Sign for it, mate. Five and go. Stick in a five and go. Whoa, whoa, whoa. Stick in a five and go. Stick in a five and go. Stick in a five and go. Stick in a five and go. Whoa, whoa, whoa. Stick in a five and go. Stick in a five and go. Stick in a five and go. Five and go, whoa, whoa, whoa. Stick in a five and go. Stick in a five and go. Stick in a five and go. Stick in a five and go. Potentissimi. Sleaford Mods, forse. La cosa più figa che abbiamo ascoltato negli ultimi tempi a livello di beat, di cantato, una crudezza dei testi. Well, I don't own a bar, I can't punch nothing. Di questo racconto di apatia. So I just wanna bang someone out. The days are long inside a scream. But some of these people have given. Proprio delle periferie delle grandi città. Di quel Regno Unito della Brexit che è rimasto unito per poco e della crisi profonda che comunque anche attanaglia quella isola, quelle isole da molti molti anni, dalla fine dell'impero. The plague rolls down from the hills up there. It's fit for work if it can shit and stare. This is how it's gone on in the United Kingdom. The plague rolls down from the hills up there. It's fit for work if it can shit and stare. This is how it's gone on in the United Kingdom. Whoa, yeah. E quindi dopo Filippo Andreani insieme al Sigaro in Roma e il mare. Sleaford Mods, stick an F5 and go. E questo è Bang Some Mouth Out. The righteous gob in sincerity. And this medieval constituency. Just so dry, I wanna bang someone out. The plague rolls down from the hills up there. It's fit for work if it can shit and

E quando in quegli anni 80 questo disco girava sul piatto del giradischi, il vinile girava. E quindi dopo Inside Me veniamo un po' più avanti, non allontanandoci troppo da quei temi. Dopo gli Spaceman 3, che poi ascolteremo più tardi, Spaceman J fondò questi Spiritualized. Questo Amazing Grace è del 2003. La quinta traccia, Never Going Back, Spiritualized a Radio Onda Rossa, 25 o'clock. Control. I can't shake it, Lisa. Got your name right on my. E così, dato che niente da vendere, ci conferma che effettivamente abbiamo parlato di Deliquio e questa sera sta venendo piuttosto bene questo maneggiamento manco troppo narcotico, eh. E difatti parte una lunghissima session di Spiritualized di questo disco del 2003, Amazing Grace. Spiritualized che nascevano appunto dalle ceneri di Spaceman 3, cioè lo space rock dichiarato, sputato. E quindi andiamo ad ascoltare chi invece lo space se l'è più o meno inventato. 1973, Hawkwind. Il lavoro si chiamava Do Re Mi Fa Sol La Ti Do. E la traccia appunto è estremamente eloquente di quello che andrete ascoltando. Space is Deep, seconda traccia. Hawkwind. Thank you. Ed era il 1986. Disco che presentava sulla copertina la scritta The Drugs e poi il titolo completo Taking Drugs to Make Music to Take Drugs to. Spaceman 3 provenienti da Rugby nel nord delle isole britanniche. Questa era 2.35 la feedback version e quindi Spaceman 3, Sonny, guitar feedback, Jason alla chitarra, Bassman al basso. E Butker alle percussioni. E vi andiamo a ricordare un po' di appuntamenti, di cose da ricordare. Bull Brigade, 14 dicembre, The Chaos Brotherhood. Quindi Bull Brigade, Non Servium e Placcaggio, più DJ set di Tyrann Man. Il tutto il 14 dicembre, come dicevamo, al centro sociale occupato gestito La Strada, in via Passino 24, Roma. E con questo pure un saluto ai co-organizzatori di questa serata, Torpedos Roma. E poi 13 dicembre, Casale Alba 2, Associazione Matricola presenta il tesseramento per l'autofinanziamento dei progetti in carcere. Il dibattito, raccontare il carcere, la narrazione e testimonianze da chi lo vive e da chi lo combatte, con Radio Onda Rossa e Scarceranda. Agad alter ego, Vlad Vademecun, legali degli abusi in divisa. Il galeone Mi chiamo Sbandato, il primo libro di Edmond. Matricola XXX, un'inchiesta sul carcere bianco, banchetti delle associazioni, si mangia, si beve, si balla, con Sovverti La Metropoli. Vale la pena e Semi di Libertà Onlus, durante la serata reading estratto da Mi chiamo Sbandato. Quindi 13 dicembre, Casale Alba 2, Parco di Auzzano. Poi ancora martedì 18 dicembre, la prossima settimana dalle ore 19.30, presentazione della Scarceranda 2019. Dalle ore 22, cabaret elettronica a cura di Zug Wang. Durante la serata sarà in funzione la trattoria popolare Stra Kitchen, Enoteca La Bottegaia, Pub più B. Quindi già avete capito che si tratta dello strike a spazio pubblico autogestito, via Umberto Partini 21, Roma. Radio Onda Rossa, Scarceranda, strike, insomma, martedì 18 dicembre. nine and sniffing glue. I've even been known to take a trip or two. Banana peels and pesticide. Nothing can beat this swinging ride. Tip from me. Some folks like coffee, some folks like tea. I need more to get me out of my tree. Don't know where I'm going, don't know where I've been, but I'm where it's at. Se ne dica, per quanto si voglia discutere, a me Rudy Putrudy e i Fastone mi fanno impazzire, specie quando, come in questo lavoro, riproducono tracce. O meglio, forse, pezzi, si sarebbe detto a quell'epoca, originali del garage anni 60. E quindi Fastone, che suonano She Guys nella loro Romiral D. Onda Rossa 87.9 della modulazione di frequenza, 23.41 secondi. E se non è risultato abbastanza chiaro questa sera, ce ne andiamo a navigando, barcamenandosi fra questi suoni un po' alla deriva. Anche per presentare un dischetto nuovo uscito nel 2018, loro alla seconda uscita vengono dal sud della Francia. Si chiamano The Limignanas e ci abbiamo messo un po' per capire che cosa significava questo The Limignanas, come si traduceva, e non è traducibile perché è un cognome probabilmente di origini galiziane, vabbè, però questo è un fronzolo. Un altro dischetto suonato benissimo, di quello che, di quelli il cui suono ti entra dentro per la cattiveria, nel senso che è accattivante, con cui è stato pensato ed eseguito. Ancora una volta le atmosfere sono retro, ma delle più belle, di quelle che non tramontano mai. Solo che non ci ricordiamo quale traccia dovevamo selezionare. La nona traccia. La nona traccia, che si chiama Trois Blanc, e capirete subito di cosa si tratta. Questo 12 dicembre, strage di Stato. Tout est ok. questo è un felicissimo connubio. Tutto al femminile. Loro vengono dalla California, da Los Angeles. Si chiamano La Luz. Il loro terzo lavoro. Questo ultimo del 2018. Floating Feature. E questo come inizia il disco, cioè in maniera splendida con la loro prima strumentale Floating Feature. Poi questa era la traccia precedente Cicada e ora Lose Tet sotto la nostra voce. minuti e sempre prima si stava vedendo oltre alle iniziative serie sul carcere, la scarceranda e tutte le altre storie che sta organizzando la radio, ci stanno anche quelle facete, che non è un termine dialettale ma un sostantivo. E cioè probabilmente lo speciale Babbo Nasale, che coprirà un po' il pomeriggio del 25 dicembre, ma vabbè, ne riparleremo. Forse nemmeno tanto, no. Così a sorpresa, boom, mo ve l'ho annunciato. Tutt'altro che faceta, invece, è l'iniziativa della radio, come ogni 31 di dicembre. Dalle 10, dalle 11 più o meno, insomma, via Bartolo Longo. Alludiamo alla fine dell'anno, c'è uno splendido manifesto che fra poco vedete anche sulle mura cittadine, che presenta la iniziativa solita del 31 dicembre, che andiamo comunque a citarvi. Salutiamo la fine dell'anno, salutiamo la fine delle galere. Presidio al carcere di Re Bibbia dalle ore 10, via Raffaele Maglietti, via Bartolo Longo. Lenticchiata e banchetti, reading cassa dritta. Mettiamo fine alle prigioni e alla società che ne ha bisogno. Radio Onda Rossa scarceranda. Matricola 1312. lonely little loafer who always was a smoker stopped breathing at age 33. Del 2014 questo per The Black Angel, Clear Lake Forest si chiamava, e questa è la conclusiva Velvet Undergroundiana, così si dice, Linda's Gone, un altro tipo di alterazione. 1977, periodo florido. Floridissimo, questo lavoro è del 78. Il primo lavoro per Pere Ubu, quindi sperimentazione punk, psichedelia. Un miscuglio che oltre che generale. Tutta la produzione Pere Ubu poi sarà un po' alla radice di tutto quel movimento degli anni 80 statunitense che andrà dal punk all'hardcore alla tradizionale ballata americana, alla psichedelia, all'alterazione, alla sperimentazione, insomma. Sì. Disco seminale questo qui per Pere Ubu. Da cui abbiamo ascoltato Over My Head, e non così distante, anche se lui è stato il primo batterista dei Caius appena 17enne. E poi altro componente dei Fu Manchu, e poi ancora collaborazioni con i Mondo Generator, e infine ha fatto del suo nome il nome stesso della band, Brent Bjork, la Palm Desert, meno nota di Palm Beach, ma più nota per noi altri in quanto patria dei Caius. Ultimo lavoro anche per lui, targato 2018, Brent Bjork. Settima traccia, Somebody. We'll be right back. Ormai è il 13 di dicembre, quello che nella tradizione popolare è la giornata più corta che ci sia. E questi invece, che abbiamo ascoltato in ordine dopo Brent Bjork, abbiamo ascoltato appunto White Damien, il tessuto bianco, con la loro Bass Street. E non sappiamo se questo tessuto bianco abbia attinenza anche al tessuto che riescono a creare di intrecci di suoni. E ci piace pensare che sia proprio questa la ragione. Per cui si sono chiamati White Damien. A seguire Radio Moscow, Pacing. E poi ovviamente sotto la nostra voce, Lira del Baccano. E questo sì che è un tessuto inestricabile di suoni spinosi che vi avvolgono. Abbiamo ascoltato la loro seconda traccia, da Paradox or Glass, il paradosso della clessidra, che appunto si chiamava Paradox or Glass parte 2, no razor to Occam, e quindi niente rasoio di Occam. Medesima citazione troviamo nella Furia e nel loro ultimo lavoro riguardo al rasoio di Occam. E noi a mezzanotte 32, in procinto quasi di terminare 25 o'clock, cambiamo decisamente genere, come tante tante volte abbiamo detto in questo tipo di passaggi. dottore, m'ingimbacque, ingannala monna, so dottore, m'ingesa, gesa, cubinga monna, so dottore, so dottore, so dottore, ingibane monna, sangue di letta, le lunghezza di, gesa, mukonda, ingannala monna, dottore, ingibane monna. Sa dottore, and political rallies, but who the rich are lobby for, using me for votes, pretending me a sorry for then winning, it's a joke. I'm sick of trick-or-treaters in costume disguised as leaders, charismatic public speakers, false prophet and fake healers, articulate perfect grammar, scammers scamming us for votes, in front of TV camera with an innocent approach, no more lies and fallacies, one apologies, trying to ask please, when I squeeze on you upon your knees, justice or else, says the minister Farrakhan, so I'm stand up a yard and oath with my Glock up in my hand, if I take it literally, fuck it, geez, I'm kinda sorry, what's my need to answer what them really do to Percy, give me the microphone, I'm at me rep the innocent, paying recompense and money spent to feed the government, give me the microphone, get the people riled up, too much fucker piled up, get the team them aisled up, parallel universes in the same old hemisphere, authorities they don't care with them nose up in the air, cause our bombs them metaphoric, leak, leak, the youth them metaphoric, bombs, bombs them metaphoric, leak, leak, the youth them metaphoric, them metaphoric, leak, leak, they use them metaphoric, bombs, bombs, them metaphoric, leak, leak, they use them metaphoric. days of the last days. On the last page of the book of the dark age. We apart ways with the oppressor. Seek predecessor. Wake up and sisters and we team up together. We will meet when we meet on the battleground. Tread my microphone for a shotty and the papa sound. Just be ready when the devil sound. But not fully grown fuss. Just around us so we never nervous. What's a mental one out this shit turn physical. From long time scars we are reap the residual. From slavery to now, now the thing get critical. Them can't kill us soul cause them sights say we spiritual. Sights say we spiritual. So they be like, hey, prodigal under sights we subliminal. Get them mad then chastise them as criminal. Give we drugs and the guys say it's chemical. Cause our bombs them metaphoric. Me take the youth them metaphoric. Bombs them metaphoric. Me take the youth them metaphoric. Bombs them metaphoric. Me take the youth them metaphoric. Bombs them metaphoric. Me take the youth them metaphoric. Mezzanotte 42, ce ne vogliamo andare? Direi di sì. E quindi un finale con linee di basso ben definite. Eh sì, beh, siamo passati a una compilazione house. Mele, giovane DJ. Estremamente eclettico. Autore di questo doppio mixtape dal quale siamo andati ad estrarre qui Manuel e o Spirito Santo. Se non Doctor nella versione Adam Port Edit. E poi ultimo lavoro per Tiaveri Corporation. Letter to the Editor in versione remix con la voce di Jaquel Jones, ovviamente alla Jamaica. Con questo non facciamo altro che ricordarvi la programmazione di domani della radio. In quanto vi lasciamo in compagnia della compagna automatica fino alle 8 di domattina con le sue repliche e selezioni musicali. Si riprende appunto alle 8 con la lettura delle prime pagine dei giornali, la rassegna stampa cittadini, redazione della mattina, il giornale radio e lo spazio comunicazione, poi tutta scena cinema. Alle 15 Attica Blues, alle 16 La Schiena del Sol e il Mezzedes, poi dalle 18 alle 20 e poi e poi fino alle 23 quando chiude Apostasia. Abbiamo incontrato poc'anzi Paizo, girante per San Lollo. Il nostro saluto più importante va a tutti e a tutte coloro costretti a costrette a condizioni di limitata libertà personale, carcere, latitanza, clandestinità, arresti domiciliari. Vi ricordiamo i presidi del 30 e il 31 sotto i CIE e sotto Re Bibbia. La nostra vicinanza a chi è recluso e reclusa non deve mai venir meno. Noi ce ne andiamo sotto la luna comunista, bella così, dai, a mercoledì. Let it begin, tonight we'll win. Yeah!